fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E ci siamo, Risto Radio Convento, in compagnia delle nostre carissime amiche che vengono da... Modena! Da Modena? Quella, per festeggiare, per festeggiare? Elisa che si sposa! E dov'è, dov'è Elisa, dov'è, dov'è? Sono qui! Ciao Elisa, ciao! Sai che sei stata la sposa più acclamata del tavolo dei giovani pensionati? Ah, guarda, sono spettacolari loro! Hai visto che roba? Sono stati carichissimi, no? Piaciuti molto. Però siete state voi a caricare comunque, cioè, una cosa fantastica. Allora, ditemi un po', con chi ti sposi? Con Lorenzo. Detto? Lollo. Il Lollo. Lollo. Voi lo conoscete il Lollo? Certo. Allora, ditemi una cosa positiva del Lollo. Mangia gli orsetti gormosi, quello. E quello è positivissimo, gormosi. Proprio. Che un particolare incredibile. Tu ne hai un altro? La cosa positiva è super simpatico e disponibile con tutti sempre. Confermi? Confermo. Confermi? Poi ne manca una, dov'è che non la vedo? Vale, vale, parla. La vale. Vale, un'altra caratteristica, una caratteristica del Lollo? Ha sopportato un sacco in cui si è denubilato. Ah, perché lui continua a sopportare, eh? Ah, cioè, perché voi continuate a fare di nubilato a raffica? No, ne ha fatti noi solo 6. Domani sera. 4 per ora. 4 per ora. È un lavoro, per lui è un lavoro praticamente. È un'agenzia di. Ne mancano alcuni. Ne mancano alcuni. Ma quindi siete in tournée voi? Sì, eh. Sì, ma. Siamo partite questa mattina alle 5 e termineremo forse domani sera. Ah, forse, tra l'altro. Non si sa. Quindi la sposa non sa cosa lo aspetta? No. Ok, quindi partiamo da quello che ha vissuto fino adesso. Cos'è che ti hanno fatto le amiche? Allora, questa mattina dovevano essere alle 6 a casa mia. Sì. In realtà sono arrivate un po' in ritardo. Come tutte le donne, d'altronde, sono sempre un po' in ritardo. Poi? Poi di proposito, mi hanno vestito molto elegantemente, molto molto fine. Dopodiché siamo andati a Cannes World. Sì. E a Media Movieland. Che bello. Bellissimo, ci siamo divertite da matti. Ma tu eri vestita? Sì, cioè, avevo un bel costumino fluorescente fucsia. Fucsia, perfetto. Loro tutte blu, bellissime. Ah, proprio tutto in tinta, uguali, tutto uguale. Ma belle, no, bellissime. Chi è la coreografa qua? Che tutte, avete, tutte l'avete studiato, brave così, spaccavate in giro. Bellissime. Salutiamo Leli. Salutiamo Leli, mia cognata, che è tornata a casa questa sera. Ah, si è persa il convento. Però ha un bimbo piccolino. Vabbè, allora giustificata, però uno sculaccione glielo ho dato lo stesso? Sì, sempre, vabbè, sempre. Ok, da parte del convento gli dite un colpo così alla texana e poi gli dite pom. Da parte del convento. Okay. Poi, allora, muovi. Dopo. E poi siamo arrivati qui, in questo splendido posto. Davvero? E ci stiamo divertendo un sacco, sacco, un sacco. Sacco. Che giornata fantastica allora, no? Ah, ma c'era, dov'è quella, questa qui, come si chiama? Aurora. Sì, ci sei? Ci sono. Ci sei, alla fine c'hanno, ok. Allora, e Movieland invece com'è stato? Allora, io ho fatto la metà dei giochi erano chiusi, però abbiamo visto dei gran gnocchi, quindi... questa è la ragazza single, questa? Cioè, quindi lei, lei ha interpretato le giostre in un'altra maniera. Sì, esattamente. Anziché fare un giro sulla giostra, sì, quella. Ecco, ammiravo. Lei vedeva da... tutto. Cercava un altro giro. Cercava un'altra giostra, questa ragazza. Stasera com'è andata? Hai trovato qualche giostra? Ma sì, dai. Ah, pure. Anche. È terribile. È terribile. Come si chiama la ragazza terribile? Aurora. Quindi, Aurora si prospetta una serata. Ci provo. È l'unica single, però, quindi va bene. Eh sì, quindi va bene. Giustamente, l'Aurora fa il suo dovere da. Assolutamente. Ecco, è altruista, è Aurora, si sbatte per. Lo faccio solo per loro. Solo per loro. Solo per loro, tra l'altro. Mentre la sposa è bravissima stasera. Brava. Ho qualche dubbio, ma una donna sta a sposare. Sì, sì, infatti molti della classe 64 si erano proposti. Ecco, i 55 anni della classe 64 si erano proposti perché c'era l'offerta promozionale, una sposa per due fustini e ne abbiamo trovati tanti. Io avrei accettato, fossi stato in terra. Aurora è scatenatissima. Cioè, sono sempre in tempo ad accettare, vero? Sì, sei ancora in tempo perché penso che siano ancora qua, no? Non sono andati a casa, però. No, penso proprio di no, ma poi... cioè, saranno andati al circolo al limite. Fai la svelta, sennò... Attenzione, Aurora... Aurora non la peli sulla lingua. È scatenata, ragazzi. Ma è sempre così, Aurora? No. No, è l'ormone, convento, è l'ormone impazzito forse, che la sta facendo. È l'ormone del convento che c'è in camera. Esatto, perché l'ormone, cioè nel senso, il convento ti dà quell'energia, quell'emozione, quelle... Tanto uscire da parte di te che sì, non esci mai. La sentite, l'avvertite, sì, questa sì, cosa? È bellissimo, no? C'è proprio un'energia bello, nell'aria. È fantastica. Sì? Sì. Confermi? No, beh, poi vabbè, ci sono delle creature strane, esatto, che si muovono, si ecco, muovono, tipo guardano, quello lì con la maglia. Sì, sono... sì. Che leccano il vetro. Sì, ci hanno fatto le pulizie. Se volete vi faccio uscire anche per la macchina fuori. No, no, eh, no, vai, guarda. No, va bene così? Sì, sì, grazie. Che bello, ma che bello, sono contento di aver riconosciuto, eh. Comunque, Modena, Modena o appena fuori? Pavullo nel Frignano. No, specifichiamo bene, Claudia. Ah, ok. Sasso Storno, cercatelo su Sasso Storno. Ma viene un Google turista? Google Maps, secondo me lo troverete. È mai venuto un turista a Sasso Storno? Sì, c'è la festa della birra. Ah, c'è la festa della birra. Allora, ci abitano più o meno 10 60 persone, forse. Più una decina di capre, 8 gatti e 2 cani. Ecco, non manca però più nessuno. La festa della birra regala emozioni, la festa è un aumento della popolazione. È un piccolo siamo paesino noi, di montagna. Ah, siete in montagna, abitate. Quindi nelle 60 persone ci siete dentro anche voi? Sì. Cioè, veramente? Quindi stasera ce ne sono 50? Certo. 50%. Cioè, ma che bello. Quindi se uno viene a Sasso Storno, Storno, e dice, ma vediamo com'è questo poi, voi sbucate fuori. Ci sono. Sì, sì. Ciao. Ma sono convinta che qualcuno che ascolta lo conosce. Davvero? Sì, sì. Cosa vuoi? Vuoi mettere... Ecco, attenzione, occupato. Sì, sì. È il pubblico, è qualcuno che sa di Sasso Storno. Ha detto, io ci sono stato forse, in forse vacanza, 15 giorni tra l'altro. Ok, volete... Ma in vacanza 15 giorni? Un po' tanto, eh? È un po' tanto. È un po' tanto. Solo agosto per la festa della mia. Ah, è vero, ricordiamo la data, che magari veniamo tutti. Prima, seconda settimana di agosto, dipende dagli anni. Seconda, seconda, 9, 10, cos'è? 8, 9, 10, 11. 8, 9, 10 agosto. Sì, non so come cade quest'anno, però. Bisognerebbe guardare il calendario. Secondo weekend d'agosto. Esatto, quello prima di fare agosto, dai. Ma voi siete vestite da tirolesi, tipo? No, no, no. Abbiamo una divisa perché siamo tutte lavoratrici a questa festa. Ah, ecco, le volontarie. Ovviamente ci innamorano. Citandoci poche persone. Non c'era nessun altro. Ecco, se vuoi fare una ripresa al ragazzo lì che... Non tra mi sembra che stia attento... bene però. Sì, ma è una bella cera, ecco. È molto... Tra l'altro, secondo me uno è un potenziale per Sasso Storno, questo ragazzo. L'effetto del dopo festa, l'effetto del dopo festa della birra, ce l'abbiamo qua, giusto casualmente. Purtroppo gli amici a casa non possono vedere le immagini, però meglio, abbiamo una diapositiva di cosa succede alla fine della festa di... Esatto, ecco, venite a trovarci. Venite a trovare le ragazze che sono bellissime, simpaticissime, ecco, soprattutto. Ricordiamo, e si mangiano le crescentine. Le crescentine, ma fate un messaggio pubblicitario in dialetto, dai, che... In dialetto. Ce l'abbiamo? Dai, Auri, vai tu, vai. Vai. Al cavrat sono belli. Le caprette sono belle. Beh, è un messaggio pubblicitario perché, incredibile. Eh? Perché il simbolo di questo paese, sì, sono le caprette. Ah, e vi fanno ciao? Assolutamente, cioè assolutamente, tutte le mattine quando lavorare. No, è proprio stemmato paese la capretta. La capretta. C'è una storia dietro. Mamma mia, la storia della capretta. Noi oggi avevamo proprio la maglietta con la capra. Ah, siete andate in giro... Certo, poi le altre persone non capivano, però... Però per voi c'era questo simbolo... Ce l'abbiamo nel cuore. Ma è vero che Elisa c'ha un tatuaggio della capra anche, no? Assolutamente, ma in parte... Ecco, perfetto. Quella ragazza ha detto una parola sola, ma l'ha detta giusta, eh? In parte, cioè, molto nascosta. Sentito, forse, dai. Veramente, ecco. Quest'altro è venuto anche lui alla festa della birra. No, sì, queste sono le condizioni. Fantastico. Quindi avete tutte un tatuaggio a capretta da qualche parte? Ce lo faremo. Ecco, lo mi faremo, raccomando, così la volta prossima che tornate, ecco, vi riconosciamo come le amiche. Abbiamo un marchio. Ecco, le amiche caprette di Sasso Storno. Fantastico. Ok, ci salutate ancora. Fate un saluto ognuno. Ciao da Jessica. Ciao da Claudia. Ciao da Valentina. Ciao da Aurora. Ciao ed Elisa. Elisa, la sposa, un applauso alla sposa. Auguri, ciao.